Era un periodo in cui si indagavano il concetto di caos e quanto gli stava dietro, insomma. Come area avevamo organizzato dei concerti su queste tematiche, stimolati da una lettura di fantascienza che ci consigliò Walter Marchetti, un libro bellissimo che si chiamava Agente del Caos. E tra le varie cose che abbiamo fatto, questo caos parte seconda era quello che abbiamo portato in giro per più tempo e consisteva semplicemente nel srotolare due cavi elettrici scoperti dal sintetizzatore di Paolo Tofani fino in mezzo alla gente. Cosa succedeva? Il sintetizzatore emetteva una sequenza di suoni semi-casuale con un'ampiezza limitata e quando due persone, una persona toccava i due cavi, chiudeva un circuito, la resistenza del proprio corpo interagiva con la macchina, per cui il suono cominciava a salire. Più aumentava la resistenza, quindi più persone si toccavano, questa era l'idea di Paolo Tofani, stupenda, più la macchina alzava la frequenza del proprio lavoro, il suono cominciava a salire, diventava sempre più parossistico. E lì il Parco Lambro 76 fu la prima volta che lo facevamo, sperimentavamo questa cosa. Io mi calai in mezzo alla gente e cercai di farli toccare, perché non è facile vedere un ceffo che ti porge un cavo scoperto da un palco elettrificato e toccarlo, bisogna essere deficiente. Allora quindi ecco perché sono andato io, deficiente in primis, a toccarlo e a portarlo. Fu la prima sperimentazione, poi l'abbiamo fatto e siamo migliorati nel tempo. Lì non riuscii a fare molto perché la gente cominciò a toccare me più che il cavo, per cui rimasi un po' bloccato dalla gente, ma poi col tempo, finando, mi diventava una specie di ratto in mezzo al pubblico, li prendevo, li univo e così il sintetizzatore poteva sviluppare la sua idea di caos. Meglia! Forza! Bellissimo! Quelli di questo gruppo qui dovrebbero fare una catena per toccare quelli del gruppo di là, così chiudete il circuito, avete capito? Prendetevi per mano e avvicinatevi al gruppo di là. Fate una catena con le mani e toccate i compagni dall'altra parte. Vedete che salirà subito moltissimo. Ecco, sta salendo, ecco, vi siete toccati. Sentite, quando va altissimo vuol dire che la resistenza è molto alta, quindi sono molto. Ecco, adesso dovete congiungere il circuito con Patrizio lì. Adesso mettiamo la velocità. Ehi! Ecco, sentite che aumenta ancora, si alza ancora, quindi vuol dire che siete aumentati di numero a toccare il cavo. Questo è il caos. Thank you. Ciao, ciao a tutti, benvenuti alla 12ª puntata del Rovescio della Medaglia, sempre qui su Radio Wombat. E siamo sempre i soliti, Prog 12 e mezzo e Prog 1. Buonasera, sì, ci sono anch'io. E questa è un'altra puntata speciale dedicata interamente agli area. E quello che avete sentito ora, praticamente oggi abbiamo deciso di aprire la puntata un po' così in maniera inusuale, e ossia abbiamo mandato l'intervista fatta a Patrizio Fariselli, tastierista degli area, che raccontava un po' quello che successe durante il festival, il famoso festival, l'edizione del 76, del festival del proletariato giovanile al Parco Lambro a Milano, che si teneva nel mese di giugno, e quindi ci sembrava interessante aprire la 12ª puntata con spiegata da lui in persona, perché se lo spiegavamo tra me e Prog 12, sì, con i cavi, il synth, tocca qui, tocca di là, no. Invece è stato molto, molto esplicativo questo esperimento che facevano collegando dei cavi elettrici al synth di Paolo Tofani, che era il chitarrista e a questo punto anche l'addetto al synth, e grazie all'intervento del pubblico, toccando e interagendo tra di loro, collegavano il segnale al synth e partecipavano, diciamo, attivamente alla musica, al live. Gruppo, sì. Vogliamo mettere sotto la lente l'ingrandimento, gli area? Sì, facciamo una piccola introduzione. Per sapere chi non lo sa, chi sono gli area, come sono formati e quello che hanno prodotto. Vorrei partire con un'altra intervista a Demetrio Stratos, appunto il cantante e polistrumentista degli area, in uno speciale della RAI del 1976, che descriveva un po' brevemente quello che era questo gruppo. Questo gruppo ha quasi 4 anni di vita, e anche la sua musica, chiaramente. Vuole coagulare diversi tipi di esperienze, dal jazz, il pop, la musica mediterranea e la musica contemporanea elettronica. La problematica qual è? Abolire le differenze che ci sono fra musica e vita. Gli stimoli che trae questo gruppo vengono direttamente dalla realtà, trae spunto dalla realtà e dalla strada, chiaramente. Questo era quello, comunque, per capire come gli area erano inseriti in un tessuto sociale ben preciso, in un tessuto politico e sociale. Sì, perché quindi potremmo spezzare una lancia a loro favore, nel senso che si dice spezzare la lancia, sì. Sì, sì. Non tirare la lancia. Spezzare una lancia a favore. Oh. Che nel senso, diciamo, anche se poi è riduttivo definirlo semplicemente un gruppo prog, però diciamo in quello che era in quegli anni, come abbiamo approfondito, tutta la scena prog italiana degli anni 70, è uno dei pochi gruppi che si possono contare sul palmo di una mano, che univano un po' la musica alla politica, che diciamo la progressive italiana di quegli anni, no, certo non si è distinta per l'impegno politico, ecco. No, quello no. Invece questo, diciamo, è un gruppo che, al di là dello stile musicale, era appunto un gruppo impegnato politicamente. Sì. Negli anni che vanno dal 72, perché loro cominciano, sì, nel 72, dal 72 fino al 79, con la scomparsa di Demetrio Stratos. E allora vogliamo un po', diciamo, presentare gli album, i pezzi un po' a noi cari degli area. Che ne pensi, Prog 12? Sì, partiamo, facciamo, diciamo, un po' una carrellata su quello che... Sì, sì. Allora io partirei dal primo disco, il primo disco, che è del 1973, che si chiama Arbeit macht frei, che come saprete era la scritta, l'insegna per così dire, che era in diversi campi di concentramento. Che significa il lavoro, rende liberi. Quindi già da qui si connota, insomma, una certa critica, un certo impegno. Una connotazione politica, sì. Diciamo. E di questo album abbiamo deciso di rimandare, se non sbaglio, tre pezzi, Prog 12. Sì, tre pezzi. In teoria vi manderemo quattro, però uno di questi brani li facciamo sentire in versione live in un altro album, che è un album live che si chiama A Reazione, del 1975, che racchiude un po' i successi degli album precedenti. Quindi di questo album vi faremo ascoltare il brano eponimo. Eponimo, esatto. Come Proguno mi suggerisce. Questa era una rettifica, appunto, che per 11 puntate abbiamo detto in maniera errata, omonimare invece è eponimo, ossia il nome dell'album uguale al nome della band, del gruppo. O del brano, comunque, omonimo, Arbeit macht frei, consapevolezza e l'abbattimento dello Zeppelin. Allora, questo appunto è il primo disco, e il pezzo più conosciuto è luglio, agosto, settembre nero, che vi faremo ascoltare, come ho detto, in versione live. E è l'album d'esordio ha delle caratteristiche più rock progressive, e anche vengono curate particolarmente la linea melodica. E questo album addirittura figura al nono posto della classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo l'edizione italiana di Rolling Stone, della rivista musicale, sì, sì. Rolling Stone. Quindi, che dire, vogliamo parlare un po' dei componenti del gruppo, oppure ne parliamo dopo? Magari parliamo dopo, mandiamo il primo album e poi ritorniamo a parlarvi un po' dei singoli componenti del gruppo. Arbeit macht frei. Thank you. Thank you. Senza più dicono tutti che è colpa mia, giocando tutti col corpo sconfiato dal vento che senza memoria, dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto che morì. E questo era l'abbattimento dello Zeppelin, tratto dall'album Arbeit macht frei degli Area, International Popular Group. Allora, facciamo un passo indietro, torniamo alla formazione del gruppo. Il gruppo è stato formato e voluto dal batterista Giulio Capiozzo, che in quel periodo suonava in altri gruppi che facevano più blues, rock, anche con Demetrio Stratos, appunto, questo cantante polistrumentista di origine greca. E questo primo album non era ancora la formazione quella classica base con Tavolazzi al basso, ma c'era Patrick Divas. Sì. E sì. ha inciso solo il primo album. Dopo è arrivato Tavolazzi e si è formata con il secondo album la band tipica con Stratos alla voce e strumenti, Giulio Capiozzo alla batteria, Patrizio Fariselli alle tastiere e Paolo Tofani alla chitarra e synth. Allora, procediamo con il secondo disco, che dici? Sì, altre... C'hai qualche aneddoto, qualcosa aneddoti tirato fuori? Sì, più che controllavo prima, diciamo, con i vari appunti presi per preparare questa puntata. E il prossimo album che presentiamo è Caution Radiation Area, che è del 74, di cui manderemo Zig Crescita Zero. E diciamo, nello stesso anno, ecco, questa è la nota particolare che ho scovato, che nello stesso anno, nel 74, praticamente gli Area fanno uscire un 7 pollici, quindi ho un 45 giri che dir si voglia, quindi un dischetto piccino per intendersi, di cui sul lato A c'era la notissima reinterpretazione dell'Internazionale, in stile Jimi Hendrix, diciamo, quando rifece l'inno americano. E l'altro lato c'è una citazione accompagnata da un po' di suoni così psichedelici, un po' deliranti in qualche modo. E c'è una citazione di George L. Jackson, che era uno dei leader delle Black Panthers. E questo dischetto, abbastanza ricercato dai collezionisti, come parlavo prima, con Prog 12, e praticamente uscì solo in ambienti politicizzati, militanti. In ambienti militanti. E praticamente stamparono questo 7 pollici, come oggi si dice, fecero un benefit. Come si dice? Sì. Fecero una sorta di benefit per pagare una raccolta fondi, via. Per pagare le spese legali dell'anarchico Giovanni Marini, che aveva avuto, che fu, diciamo, lo denunciarono per questo omicidio, per una storia che è successa a Salerno penso 74, forse 73, ora non ricordo bene. Comunque questo, ecco, era giusto per ricordare che nel 74 è uscito questo 7 pollici o 40 giri o 45 giri, che dir si voglia. E ci fu un noto diciamo sovrano dell'Europa dell'Est, che era Nicolae Ceaușescu, che del presidente della Romania. Presidente, diciamo il leader. Siamo il più conosciuto della Romania. Sì, era un personaggio, Nicolino Ceaușescu, che si indignò quando sentì questa versione dell'Internazionale e disse che era una vergogna assoluta che avessero deturpato l'Internazionale. E questa era una nota così. Sì. Comunque... diciamo l'eco degli Area si sentiva non solo in Italia ma oltreoceano, perché comunque avevano anche proprio delle ambizioni internazionaliste e popolari, quindi che volevano che la loro musica si espandesse in tutto il mondo. Infatti comunque hanno sia come studio, come esperienza personale, che come live, come concerti, hanno girato un po' in tutto il mondo. Sì, sì, sì. Ricordo anche live, tra l'altro registrato, Parigi-Lisbona, sì. Che con dei concerti sia a Parigi che a Lisbona. E poi tutte le varie esperienze formative, sia in Medio Oriente, nell'Estremo Oriente, negli Stati Uniti. Sì, perché poi appunto sia Tofani che Stratos comunque viaggiavano parecchio, erano sempre alla ricerca di nuovi spunti musicali, comunque infatti si vede, per dire, già Stratos con la sua voce, quello che faceva. Sì, era quasi, riprendeva da dei, come se fossero dei mantra questi suoni. C'è un termine tecnico che ho letto e non saprò mai ripetere, di le diplofonie e quadrifonie. Ah, ecco, bravo. Che praticamente lui con una sola emissione del, diciamo, del fiato, riusciva all'inizio a fare due suoni diversi, due tonalità diverse, e con l'allenamento riusciva anche a produrre quattro suoni diversi con una sola emissione, diciamo, tipo gola, naso, diaframma. Poi dopo vi faremo sentire quello che riusciva a fare. Suonava la voce come diceva lui, come fosse uno strumento musicale. Secondo me anche più di uno strumento musicale, perché con uno strumento a fiato fare 3-4 suoni contemporaneamente non è da tutto. È molto difficile. Ecco. Comunque andiamo avanti con il secondo album, che è Caution Radiation Area, che ha dato vita al brano più famoso, che è Cometa Rossa, che noi faremo sentire in versione live dopo. E di Caution Radiation Area vi faremo ascoltare Crescita Zero. E Crescita Zero è una denuncia dell'alienazione della vita metropolitana, della vita contemporanea, e una critica alla mercificazione dell'individuo. Tutto questo fa parte dell'album Caution Radiation Area del 1974, e il pezzo che vi faremo sentire è Crescita Zero. We'll be right back. Ok, avete ascoltato Zig Crescita Zero, tratto dal secondo album degli Area, ossia Caution Radiation Area, e andiamo in ordine cronologico presentando quello che è il terzo album degli Area, uscito nel 75, sempre questo non l'abbiamo detto, via via ci ricordiamo di tutte le varie note, le varie notizie che abbiamo. Il terzo album, che esce sempre con la Cramps, questa famosa etichetta storica, c'è la scritta Cramps con il Frankenstein dietro, perché uno dei fondatori dell'etichetta lo chiamavano Frankenstein. Lo chiamavano così forse per la sua bellezza, non lo so, e quindi da lì è nata l'idea di abbinare la scritta Cramps sotto e sopra questo Frankenstein che sembra la sorregga, la braccia. Il mostro tratto da Frankenstein, sì. Perché in realtà Frankenstein era lo scienziato, il mostro non lo so come mostro, si chiamava. Sì, in effetti non... Vabbè, sempre diciamo, ecco, diamo un altro po' di note, che sempre nel 75 gli Area suonarono alla Festa Nazionale dell'Unità a Firenze, e parlando sempre di Firenze ricordiamo che Paolo Tofani veniva anche dai Califfi. Era il chitarrista dei Califfi, che è un gruppo noto gruppo beat fiorentino. E anche qualcosa un po' più progheggiante ha fatto, come avrete sentito nelle puntate precedenti. E facciamo, visto che siamo qui a parlare degli esordi dei componenti del gruppo, faccio un'errata a corrige, perché nelle puntate scorse avevo detto che Stratos veniva dal gruppo Quelli, invece viene dai Ribelli. E sono i Ribelli che hanno scritto rima. Quelli e Ribelli. Fa rima. Sì. Erano entrambi di Milano. E il brano Pugni Chiusi, famoso, cantato da Stratos, è dei Ribelli. Che uscì anche quello su 7 pollici, perché uscirono diversi 45 giri di Stratos con i Ribelli. Tra l'altro... Lasciami, le sparo tutte. Certo. Tra l'altro, che fece uscire qualche singolo, quindi 45 giri / 7 pollici, anche per quella che fu l'etichetta di Lucio Battisti, Stratos. Lo sapevi? Non lo sapevo. Nemmeno io. Ma vedi? Grazie. Comunque, va bene. Abbiamo da tirar fuori tutte le notizie che abbiamo. Mandiamo. Non abbiamo detto cosa manderemo di quest'album. Manderemo due pezzi abbastanza famosi che poi si sono portati, che poi erano un po', diciamo, i trascinatori No, pezzi canonici dei loro live, ossia sì. L'Elefante Bianco e Gioia e Rivoluzione, che erano un po'... Che era una tradizione suonarli nei loro live. Sì, era. Sì, perché ovviamente oltre a tutti i pezzi sperimentali, psichedelici, caotici, tutto quello che c'è di comunque pezzi di denuncia, di rottura, sia a livello sociale che a livello musicale, ogni tanto c'erano dei bellissimi pezzi con delle parti più melodiche, delle parti cantate che un po', diciamo, trascinavano il pubblico dopo un po' di ascolto più intellettuale della musica. Avevamo bisogno anche un po' di uno sfogo musicale, senza tralasciare comunque sempre l'impegno politico e sociale che faceva parte appunto dei testi e della musica degli Area. Quindi da Crack 1975 cosa andiamo a presentare? Elefante Bianco e Gioia e Rivoluzione. Quindi Gioia e Rivoluzione per tutti. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu.

nostre gole più che altro. Le nostre gole anche. E praticamente ho scelto di iniziativa mia di presentare il live e a reazione perché l'album appena presentato, Crack, era del 75, nello stesso anno esce l'album live a reazione e che praticamente raccoglie tutta una serie di concerti tenuti nel 75 in Italia, tra Milano, Napoli, Rimini e Reggio Emilia. E, diciamo, quello più conosciuto di questi sicuramente è Milano, come abbiamo ricordato prima, raccontato prima, che era il festival del proletariato giovanile, che si è tenuto per qualche anno in quegli anni 74, 75, 76, sicuramente perché riguarda gli area, poi non l'ho più seguito. Un festival molto, molto, molto discusso, molto, che ricordiamo all'epoca veniva presentato da Renudo, che era questa specie di collettivo, uscivano anche con una rivista. E, diciamo, fu un festival molto, molto discusso per tutta una serie di tematiche che riguardavano un po' l'epoca, dall'emancipazione femminile all'affermazione nella società degli omosessuali, e quindi fu un festival molto discusso, ecco. C'è anche un interessante documentario che potete trovare su YouTube che parla proprio di quel festival, che spiega sicuramente meglio di me come sono andate, come si sono svolti i fatti, come è andato il festival, ed è molto interessante, consiglio di guardarlo. Di questo album mandiamo, come avevo annunciato prima, Prog 12, Luglio, Agosto, Settembre Nero, La Mela di Odessa e Cometa Rossa. Sì. E l'unica cosa che volevo dire è che in questo album live potrete trovare anche la famosa interpretazione degli Area dell'Internazionale. Sì, sì, che abbiamo raccontato prima. Sì. Ok. Gli Area da Areazione, Luglio, Agosto, Settembre Nero. Sempre su Radio Wombat. Wombat. Sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra il quotidiano, legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non vuol morire. L'essenzialità non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare quella l'umanità. Mm-hmm. Τραγουδί, η ζωή. gonna do? More clear, you sound. Oh, tus tomas tus pitas. Ademare, ademare con me. Stomach and feet, yeah. Questo era Cometa Rossa, cantato appunto in lingua greca, la lingua originaria del cantante Demetrios Stratos, tratto dal live A Reazione. Allora, andiamo avanti con il quinto album degli Area, che si chiama Maledetti, con un sottotitolo in francese Maudit. Vabbè, se l'ultimo, e diciamolo insieme, no. Prog 12, questo è un concept album. Finalmente è tornato tra noi un concept album. E questo è appunto il quinto disco, sempre pubblicato dalla Cramps Record. E durante queste registrazioni c'era il batterista Giulio Capiozzo e Ares Tavolazzi, il bassista. Tavolazzi. Lasciarono per qualche mese il gruppo perché suonavano con l'orchestra di Andrea Mingardi. Non so per quale motivo, forse per problemi economici. Comunque male. Questo è l'ultimo album in studio con Paolo Tofani alla chitarra. Da questo tour promozionale dello stesso anno furono tratti due album live, il concerto al Teatro Uomo, che è uscito nel 1997, e il live 1977, uscito nel 2002. Pensate un po'. Quanti anni ci è voluto per pubblicarlo, per capire l'importanza. Comunque, questo si diceva un concept album che affronta tematiche politiche e sociali attraverso una storia di fantapolitica. Il filo conduttore di questa storia è ben espresso nelle note di copertina dell'edizione originale del disco, che andrò a leggervi. Progetto concerto di fantasociopolitica. La società futuribile è spaccata in verticale e divisa in corporazioni. Un plasma liquido è la coscienza del mondo, custodita in un computer di una banca. Per un guasto si verifica la dispersione progressiva del liquido, totale perdita della coscienza umana. E a questo riguardo confrontiamo Evaporazione e il massacro di Brandeburgo numero 3 in Sol maggiore. Da questa situazione iniziale si possono avere tre ipotesi evolutive. La prima è dare il potere agli anziani come depositari della memoria del passato che esclude e respinge la problematica del contingente. E riguardo a questo vi faremo sentire gerontocrazia, che significa comunque potere agli anziani. La seconda ipotesi sarebbe il potere alle donne, come fornitrici di energia e contributi radicali nuovi, in antitesi alla loro repressione storica. E su questo tema vi faremo ascoltare Scum. La terza ipotesi è il potere ai bambini, come garanzia di libertà e di reinventare la storia con la forza della fantasia. E a questo proposito c'è Giro Girotondo e Caos. Diciamo anche i tecnici di questo album. Piero Come? Bravin, tecnico del suono, poi diciamo tutti i vari tecnici, No, vabbè, questo comunque. Abbiamo preso questi tre pezzi che indicano appunto No, ma io penso Prog 12 che sia forse la presentazione più bella che abbiamo mai fatto di un album, vero? Sì. Ovviamente siamo molto Sì, un po' superficiali. così buttati, Così alla Carlona, ecco. buttati là. Invece questo comunque è comunque un tema secondo me ancora attuale, no? È La vero, è vero. fantascienza, poi la fantascienza è fantapolitica. Forse è più reale della politica attuale Sì, condivido, in condivido. certi contesti. È vero. Comunque, penso che comunque questi pezzi dicano molto di più di quello che possiamo dire noi, e quindi partiamo con diciamo, la prima ipotesi evolutiva da questo mondo al collasso, che si chiama gerontocrazia. Megaloferemu

Ok, allora abbiamo appena ascoltato dall'album Maledetti, o come ci ha ricordato Prog 12, Maudits. No, Maudit. Non so se queste T, queste S si leggono. Adesso c'era anche la versione di Elite Fever. Maudit. Vabbè. Quindi concludiamo con questa, con la fantasia al potere, i bambini al potere. Fantasia al potere è tema caro di tutti gli anni 60 e 70, no? Sì, è vero. E passiamo praticamente a quello che è il settimo album, nonché ultimo album con Demetrio Stratos alla voce, nonché ultima collaborazione con la Cramps Records. Sì. E anche l'album della disfatta, è anche il primo disco dopo l'abbandono del chitarrista Tofani. Sì, datosi agli Hare Krishna. L'album della disfatta, okay. Via. Però comunque Tofani è tornato anche dopo a suonare con gli Area nella versione strumentale più free jazz. E te che fanaticamente, orgogliosamente mi raccontavi di aver visto gli Area, il Tofani l'hai visto già nelle vesti arancioni? No, era in borghese, era nei vestiti borghesi. Sì, l'ho visto a Firenze, non mi ricordo l'anno, alla Limonaia di Sesto Fiorentino, con la versione, diciamo, versione classica senza Stratos, e un'altra volta al Festa Ambiente in provincia di Grosseto, sempre con la stessa formazione, pochi anni dopo. Scusa, e a Parco Lambro non li hai visti gli Area? Al Parco Lambro non me lo ricordo. Cosa che ripenso? Anche perché ricordiamo che nel 76, quando diciamo la parte iniziale che abbiamo mandato che il pezzo d'intervista, praticamente loro hanno suonato in tarda notte, ossia penso le 2, le 3 del mattino, cioè orari improponibili. Sì, mi ero già un po' assopito. In una aiuola. Ok, allora come abbiamo appena detto prima, praticamente siamo arrivati al 1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano, che praticamente è l'album della disfatta, e Demetrio Stratos abbandona il gruppo, chiudono la collaborazione con la Cramps Records, è il primo disco dopo l'abbandono di Tofani, e quindi un po' l'album della disfatta, via. Sì, anche perché l'anno successivo Demetrio Stratos, dopo una malattia, viene a mancare. Sì, esattamente, quindi... il 13 giugno negli Stati Uniti, ricordiamo. Sì. A New York. Ci furono un sacco di concerti in Italia a sostegno di questa malattia e delle cure soprattutto per Demetrio Stratos. Solo che ho letto che cominciarono diciamo abbastanza tardi, quindi si trasformarono da raccolta fondi per le cure a raccolta fondi per le spese funebri, si può dire. Come commemorazione, diventò subito... Okay. Comunque, questo album... grandissimo album che fa da fine a questa esperienza, ma che lascia comunque un'impronta molto importante nella musica italiana e nella musica mondiale. Stratos ormai è arrivato a dei livelli diciamo musicali, canori incredibili, quasi magici, sì, una cosa che non si riconosce se è voce, se è strumento, se sono suoni. Comunque, ora vi faremo sentire. Comunque, da questo album vi faremo sentire nell'ordine Il bandito del deserto, Return from Workuta e Homage. Omage a Violette Nozière, scusate il francese, ma no. Omage a Violette Nozière. Nozière ci piace. Comunque, Il bandito del deserto è liberamente tratto da una casida del poeta arabo preislamico Shamfara. Non so cosa sia una casida, ma penso sia una sorta di poesia musicale. Beh, io non so nemmeno cosa sia un poeta preislamico. È un diciamo un poeta arabo, un poeta arabo prima del, diciamo, della conquista islamica di tutto il Nord Africa e di tutto il Mediterraneo. Ah, ok. Quindi quante ne sa. Poi quello, l'omaggio a Violette, è invece ispirato a un passo di André Breton, mentre l'ultimo brano Return from Workuta, qui si mischiano lingue perché scrivo, cioè, dal greco, l'inglese, il francese, si sta mischiando tutto. È un brano strumentale dove troviamo tutte le potenzialità canore e sonore della voce di Demetrio Stratos. Questo è l'ultimo album, dopodiché ci sarà il primo album senza Stratos alla voce, che si chiama Tic Tac, che non so se vi faremo ascoltare ora a seconda di come ci gira. In più vi lasceremo con una perla. Una perla che vi presenteremo dopo. Comunque, dagli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano. Il bandito del deserto. Ora in ricchezza, un desiderio, paura, libertà, bisogno di chiarezza. Nella polvere un rifugio, ripara dall'offeso. Ti tiro per chi teme, il nemico è la resa. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore, sì, un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace, tutto tace. Dopo internato approfitterei di un momento lucidità. Lasciate il mio delirio, il mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore. Sì, un dottore, credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella finalmente, lasciato in pace. Un po' di suspense, che io dicevo, non era il minuto di silenzio, no, però per pensare, per assimilare questo pezzo, che come avete sentito, l'ultimo strumento che avete sentito, questo, l'ultimo strumento a fiato, non era uno strumento, ma bensì era la voce di Demetrio Stratos. Ci ha messo 10 anni per scoprirlo. Io ci ho messo 10 anni da quando avevo 16 anni, l'ho capito da quando ne avevo 26, che quello non era uno strumento ma era la sua voce o le sue voci. E come hai fatto a scoprire che avevi 26 anni? ho guardato la carta d'identità. Ok, allora va bene. Allora, siamo arrivati, seguiamo quindi la cronologia di questa puntata. Ah, ricordiamo, hai ragione, Prog 12, oggi non abbiamo mai detto. A questo punto, allora, vi ricordiamo che state ascoltando Radio Wombat, con tanto di picco che vi sponderà le casse. Comunque, qui su Radio Wombat abbiamo un bel sito che lo potrete trovare scrivendo wombat.noblogs.org. Oppure su twitter.com/radiowombatfi, oppure su facebook.com/radio-wombat-firenze. E se volete scriverci, di infamarci o darci consigli, tutto quello che volete, c'è la nostra posta elettronica, è postawombat@insiberia.net. Perfetto, e allora andiamo avanti, seguiamo la cronologia che ha caratterizzato questa puntata. Andiamo avanti e siamo arrivati al 1980. Quindi già un anno dalla scomparsa, ricordiamolo, di Stratos. E gli Area vanno avanti facendo un album, ovviamente togliendo parte alla linea melodica, sia quella vocale che la melodia, e spostandosi un po' di più sul jazz, sul free jazz e su comunque la musica strumentale e sperimentale. Da questo album ho preso, sinceramente posso dire che l'ho preso io? Sì, certo. Ma questa scaletta diamo a Cesare quel che è di qualcun altro, cioè questa scaletta l'hai preparata tutta te. Cambiamoci un segno di pace, facciamo un po' di tutto. L'hai preparata tutta te questa scaletta, cioè prendi i tuoi meriti. Va bene. E il brano, diciamo, un po' più particolare, che si allontana un po' dal free jazz puro, che si chiama Electric Rag, da Tic Tac, 1980. Dopo questo simpatico motivetto, il caso di dirlo, andiamo alla perla finale. Questo è un, possiamo dire, un bootleg, un live registrato un po' a cazzo di cane, diciamo anche questo. È un concerto registrato nel 1978, un live, un concerto un po' come dicono appunto i componenti degli Area, nato però un po'... Prog 12, ti correggo, perché comunque è uscito nel 79, forse, cioè, è stato registrato forse nel 78, registrato nel 78, uscito 79, che è nato un po' come un gioco, come un divertimento tra Demetrio Stratos, Paolo Tofani, quindi il suo chitarrista, e Mauro Pagani, il mille strumentista che ha suonato in tutti i gruppi italiani dal 1961, no, forse dal 65 a oggi, che ancora suona, direttore musicale, direttore artistico. Anche della PFM, Mauro PFM, Pagani. È stato ovunque, sì, infatti. Con De André. Sì, sì, infatti. E questo live, questa tournée, purtroppo interrotta presto dall'aggravarsi della malattia di Stratos, si chiama Rock and Roll Exhibition. Quindi Stratos torna un po' alle sue origini più, diciamo, più legate alla musica rock, alla musica occidentale, no? Dopo tutto il suo percorso orientale, medio orientale, torna per finire la sua carriera al rock and roll americano classico, e fa un tributo. Comunque ci sono anche altri musicisti, c'è Walter Calloni alla batteria, che è stato comunque, che ha suonato anche lui in molti gruppi italiani, e ripercorrono un po' quello che è stato il rock and roll americano dagli anni 50 agli anni 60. Purtroppo la registrazione proprio del disco non è un granché, però vale la pena ascoltarlo, vale la pena avere questo disco. Si trova solo il vinile in commercio, però se lo trovate... No, rettifico, c'è anche il CD. C'è anche il CD, oh, meglio, è più fruibile, perché probabilmente il disco costa... No, la prima stampa è uscita con l'etichetta Tarma nel 2001 in Italia, il CD. Ah. Sì, sì. E poi è uscita anche una versione giapponese, una versione tedesca pure. Insomma, però no, pure il disco si trova anche. Beh, a prezzi abbastanza proponibili. E allora cercatelo e prendetevelo. Perché comunque è un disco divertente, e comunque sentire la vocalità di Stratos messa sopra un pezzo rock and roll fa sempre il suo effetto. Quindi da questo album, Rock and Roll Exhibition, vi faremo ascoltare Hound Dog di Jerry Lewis, se non sbaglio. Sì, mi sa di sì. E l'altro pezzo è Blueberry Hill, che è un classico ripreso anche da tanti altri cantanti. Quindi vi lasciamo con questi due pezzi. Sì, che è una larga chiusura. Una larga chiusura. Quindi con questa salutiamo tutti ora. Anche, salutiamo tutti ora, salutiamo Stefanino in primis. Ciao Stefanino, sempre con noi. Poi Federico. E poi tutti gli altri ascoltatori. Tutti questi ascoltatori, che ne so, Giannetto ci ascolterà qualche volta. Giannetto non importa una sega. Va bene. Salutiamo le Bruschette, che comunque c'è una grande collaborazione, perché loro ci passano quelle le colleghe dell'Accademia della Brusca, ogni tanto ci passano qualche termine così da dire per farsi belli. Sì, è vero. Quindi salutiamo le Bruschette, simpaticamente chiamate, e vi lasciamo un po' di cazzo rock and roll con Demetrio Stratos, Mauro Pagani e Paolo Tofani. Rock and Roll Exhibition. Enjoy. You ain't nothing but a hound dog, rockin' all the time. You ain't nothing but a hound dog, rockin' all the time. Nothing but a rabbit and ain't no friend of mine. Well, I thought you were high class, rockin' all the time. All the time. You're nothing. Blueberry Hill. On Blueberry Hill, where I found you. I said the word stood still. Where I found you. Yes, I do. Yeah.